Gerth una volta aveva pensato di assumersi l'amministrazione di Stonecourt allo scopo di metterci vostro nipote Fred. Il bestiame doveva restare com'è e dovevano pagare una certa quota del ricavato invece di un normale affitto. Questo sarebbe un inizio desiderabile per il giovanotto, unito al lavoro che svolge alle dipendenze di Gerth. Vi soddisferebbe? Sì, certo, disse Mrs. Balstrow, mentre le tornava un po' di energia. Il povero Walter è così abbattuto. Cercherei di fare qualsiasi cosa che sia in mio potere per fargli un po' di bene prima di andarmene. Siamo sempre stati fratello e sorella. Voi stessa dovrete fare la proposta a Gerth, Harriet, disse Mr. Balstrow, non andandogli a genio ciò che aveva da dire, ma mirando allo scopo che si era proposto per altri motivi oltre quello di consolare la moglie. Dovete dirgli che la terra è virtualmente vostra e che non è necessario che tratti con me. Le comunicazioni possono avvenire tramite Standish. Vi rendo noto questo perché Gers ha rinunciato a fare l'agente per me. Posso consegnarvi una carta stilata da lui stesso, in cui sono stabilite delle condizioni e voi potete proporgli che le accetti di nuovo. Credo che molto probabilmente le accetterà quando gli proporrete la cosa per fare un favore a vostro nipote. Capitolo 86. Mrs. Gerth, nell'udire Caleb entrare nel corridoio verso l'ora del tè, aprì la porta del salotto e disse: Eccoti qua, Caleb, hai cenato? I pasti di Mr. Gerth erano spesso subordinati agli orari degli affari. Oh sì, una bella cena, castrato freddo e non so cosa. Dov'è Mary? Nell'orto con Letty, penso. Fred non è ancora arrivato? No. Ha intenzione di uscire di nuovo senza prendere il tè, Caleb? Chiese Mrs. Gerth, vedendo che il distratto marito si stava rimettendo il cappello che si era appena levato. No, no, vado solo da Mary un attimo. Mary si trovava in un angolo erboso dell'orto, dove c'era un'altalena che pendeva dalla sommità di due peri. Aveva un fazzoletto rosa legato sul capo che le faceva una piccola visiera per ripararle gli occhi dai raggi orizzontali del sole, mentre stava dando una gran spinta a Letty che rideva e strillava all'impazzata. Nel vedere il padre, Mary lasciò l'altalena e gli andò incontro, spingendo indietro il fazzoletto rosa e rivolgendogli di lontano il sorriso involontario dell'affetto gioioso. Sono venuta a cercarti, Mary, disse Mr. Gerth. Facciamo una passeggiatina. Mary sapeva benissimo che il padre aveva qualcosa di particolare da dirle. Le sopracciglia avevano un'angolazione patetica e nella sua voce c'era una dolce serenità. Questi segni le erano familiari da quando aveva l'età di Letty. Lo prese di braccetto e svoltarono per rifilare dei noci. Passerà un tempo ben triste prima che ti possa sposare, Mary, disse il padre senza guardarla, ma osservando l'estremità del bastone che teneva nell'altra mano. Non un tempo triste, padre. Ho intenzione di essere allegra, disse Mary. Sono nubile e allegra da 24 anni e più. Non credo che passerà altrettanto tempo. Poi, dopo un breve attimo di silenzio, disse con aria più seria, piegando la faccia di fronte a quella del padre: Se voi siete contento di Fred. Caleb storse la bocca e saggiamente volse il capo da un'altra parte. Andiamo, padre, ma sì, lo avete lodato mercoledì scorso. Avete detto che si intende in modo particolare del bestiame e ha un buon occhio per le altre cose. Ho proprio detto così? Chiese Caleb con aria furba. Sì. Ho segnato tutto, e la data anno domini e tutto il resto, disse Mary. Mi piace che le cose vengano annotate con cura. E poi il suo modo di comportarsi con voi, padre, è davvero bello. Nutre un rispetto profondo per voi ed è impossibile avere un carattere migliore di quello di Fred. Già, già. Vuoi convincermi a credere che sia un buon partito? No, davvero, padre, non lo amo perché è un buon partito. E allora perché? Oh mio Dio, perché l'ho sempre amato. Non mi piacerebbe rimproverare nessun altro come rimprovero lui. E questo è un punto da tenere presente in un marito. Allora sei del tutto decisa, Mary? Chiese Caleb, assumendo il tono di prima. Non ti è passato per la testa nessun altro desiderio da quando le cose vanno come sono andate ultimamente? Caleb alludeva un sacco di cose con quella frase vaga. Perché meglio tardi che mai. Una donna non deve fare violenza al proprio cuore. In questo modo non fa alcun servigio a un uomo. I miei sentimenti sono molto cambiati, padre, disse Mary calma. Sarò fedele a Fred finché lui sarà fedele a me. Non credo che nessuno di noi due può fare a meno dell'altro o amare di più chiunque altro, per quanto lo possa ammirare. Per noi sarebbe una differenza troppo grande, come vedere cambiati tutti i vecchi luoghi e cambiare il nome di ogni cosa. Dobbiamo aspettare molto, ma questo Fred lo sa. Invece di parlare immediatamente, Caleb rimase fermo e affondò il bastone nel sentiero erboso. Poi disse con voce emozionata: Beh, ho una notiziola. Cosa ne pensi se Fred va a vivere a Stonecourt e si occupa della terra che c'è? Come può mai essere, padre? Fece Mary con aria stupita. Se ne occuperebbe per sua zia Balstrò. La poveretta è venuta da me a implorarmi e pregare. Vuole fare del bene al ragazzo e potrebbe essere una bella cosa per lui. Risparmiando poco a poco potrebbe comprare il bestiame ed è portato per l'agricoltura. Oh, Fred ne sarebbe così contento. È troppo bello per crederci. Ah, ma attenzione, disse Caleb volgendo il capo a monitore. Devo assumermi io l'impegno ed esserne responsabile e occuparmi di tutto. E questo addolorerà un po' tua madre, anche se forse non lo dice. Fred deve fare attenzione. Forse è troppo, padre, disse Mary frenando la gioia. Non ci sarebbe felicità a procurarvi nuovi fastidi. No, no, il lavoro è il mio piacere, bambina. Quando non irrita tua madre. E poi, se tu e Fred vi sposate, a questo punto la voce di Caleb tremò in modo appena percettibile. Starò con la testa a posto e risparmierà. E tu hai l'intelligenza di tua madre e anche la mia, in un certo modo femminile, e lo terrai in riga. Sarà qui a momenti, così volevo dirlo a te prima, perché penso che ti piacerebbe dirglielo a quattro occhi. Dopodiché potrei parlarne distesamente con lui e potremmo studiare l'affare e la natura delle cose. Oh, caro buon padre! Esclamò Mary mettendogli le mani attorno al collo, mentre questi piegava placidamente il capo, disposto a farsi accarezzare. Mi chiedo se nessun'altra ragazza pensa che suo padre sia il miglior uomo del mondo. Stupidaggini, bambina, giudicherai migliore tuo marito. Impossibile, disse Mary, assumendo di nuovo il suo tono consueto. I mariti sono un genere inferiore di uomini che hanno bisogno di essere tenuti in riga. Quando stavano entrando in casa con Letty, che aveva fatto una corsa per unirsi a loro, Mary vide Fred al cancello dell'orto e gli andò incontro. Che bei vestiti hai addosso, giovane spendaccione, disse Mary, mentre Fred se ne stava fermo e le faceva tanto di cappello con giocosa cerimoniosità. Non impari a fare economia? Andiamo, questa è una cattiveria, Mary, disse Fred. Guarda soltanto i bordi di questi polsi. È solo a forza di belle spazzolate che mi presento in modo rispettabile. Sto risparmiando tre vestiti, uno per il matrimonio. Che ridicolo sembrerai! Come un gentiluomo in un vecchio figurino. Oh no, andranno ancora bene tra 2 anni. 2 anni? Sii ragionevole, Fred, disse Mary voltandosi per passeggiare. Non incoraggiare delle attese lusinghiere. Perché no? Si vive di essa più che di quelle poco lusinghiere. Se non potremo sposarci fra 2 anni, la verità sarà già abbastanza brutta quando arriverà. Ho sentito una storia di un giovane gentiluomo che una volta incoraggiò delle speranze lusinghiere. E questi gli fecero male. Mary, se hai qualcosa di scoraggiante da dirmi, scapperò. Andrò in casa da Mr. Gers. Sono depresso, mio padre è così addolorato. Non riconosco più casa mia. Non posso sopportare altre brutte notizie. La chiameresti una brutta notizia se ti dicessero che dovrai andare ad abitare a Stonecourt e dirigere la fattoria ed essere prudente al massimo e risparmiare ogni anno finché tutto il bestiame e i mobili non saranno tuoi e sarai un distinto personaggio agricolo, come dice Mr. Borthrop Tremble, piuttosto corpulento, temo, e col greco e il latino tristemente logorati dalle intemperie? Non intendi dire altro che sciocchezze, Mary, disse Fred, arrossendo tuttavia lievemente. Questo è ciò che mio padre mi ha appena detto su ciò che può accadere. E lui non dice mai sciocchezze, fece Mary levando lo sguardo su Fred, mentre egli le afferrava la mano, intanto che passeggiavano finché non le fece piuttosto male. Ma lei non volle lamentarsi. Allora potrei essere un uomo terribilmente onesto, Mary, e ci potremo sposare subito. Non così di fretta, signore. Cosa ne sai che io non voglia rimandare il nostro matrimonio per qualche anno? Questo ti lascerebbe il tempo per comportarti male e io avrei una scusa per piantarti. Ti Ti prego, non scherzare, Mary, disse Fred con passione. Dimmi seriamente che tutto questo è vero e che tu ne sei felice, perché mi ami più di chiunque altro. È tutto vero, Fred, e io ne sono felice, perché ti amo più di chiunque altro, disse Mary, col tono di una che recita ubbidientemente. Si soffermarono sulla soglia sotto il portico del tetto spiovente e Fred, quasi in un sussurro, disse. Quando ci siamo fidanzati per la prima volta, con il cerchietto dell'ombrello, Mary, tu eri solita. Uno spirito gioioso cominciava a ridere più scopertamente negli occhi di Mary, ma il disastroso Ben arrivò di corsa alla porta con Brownie che gli guaiva dietro e, lanciatosi contro di lui, disse: Mary e Fred, venite dentro, o posso mangiarlo io il vostro dolce? Epilogo. Ogni limite è un inizio oltre che una fine. Chi può abbandonare delle giovani vite dopo essere stato lungamente in loro compagnia e non desiderare di sapere cosa accadde loro negli anni successivi? Infatti il frammento di una vita, per quanto tipico, non è il campione di una trama uniforme. Delle promesse possono non venire mantenute e un ardente esordio può essere seguito dal deterioramento. Forze latenti possono trovare l'occasione da lungo attesa. Un errore commesso nel passato può imporre una grande riparazione. Il matrimonio, che è stato la meta di tante narrazioni, è ancora un grande inizio, come lo fu per Adamo e Eva, i quali trascorsero la luna di miele nell'Eden, ma ebbero il primo figlio fra i rovi e i cardi del deserto. È ancora l'inizio dell'epica domestica, la graduale conquista o la perdita irrecuperabile di quell'unione completa che fa dell'avanzare degli anni il punto culminante e della vecchiaia la messe di dolci ricordi in comune. Alcuni si mettono in cammino come crociati di un tempo con un risplendente bagaglio di speranze e di entusiasmo e vanno a pezzi lungo la strada, privi di pazienza l'uno verso l'altro e verso il mondo. A tutti coloro che hanno amato Fred Vincy e Mary Garth piacerà sapere che costoro non andarono incontro a un simile fallimento, ma raggiunsero una solida felicità in comune. Fred sorprese i suoi concittadini in vari modi. Giunse a distinguersi moltissimo in quella parte della contea come agricoltore teorico e pratico e pubblicò un'opera sulla coltivazione delle piante da foraggio verdi e l'economia dell'alimentazione del bestiame, che gli procurò grandi congratulazioni alle riunioni agricole. A Middlemarch l'ammirazione fu più cauta. Qui la maggior parte delle persone furono inclini a credere che il merito della professione di scrittore di Fred fosse dovuto alla moglie, poiché non si erano mai aspettati che Fred Vincy si mettesse a scrivere di rape e di barbabietole foraggere. Ma quando Mary scrisse un libretto per i figli intitolato Storie di grandi uomini, prese da Plutarco, e lo fece stampare e pubblicare da Grip & Co., a Middlemarch tutti in città furono pronti a concedere il credito di quest'opera a Fred, osservando che egli era stato all'università, dove si studiano gli antichi, e che avrebbe potuto fare il prete se avesse voluto. In tal modo si fece capire che Middlemarch non si era mai ingannata e che non c'era alcun bisogno di lodare qualcuno per aver scritto il libro, dato che la cosa era sempre scritta da qualcun altro. Per di più, Fred continuò irremovibile per la sua strada. Alcuni anni dopo il suo matrimonio, disse a Mary che la sua felicità era per metà opera di Fairbrother, il quale gli aveva dato una forte tirata di brilli al momento giusto. Non posso dire che non fosse mai più fuorviato dalla speranza. I raccolti o ricavato da una vendita di bestiame di solito erano al di sotto delle sue stime ed era sempre pronto a credere che avrebbe potuto guadagnare soldi acquistando un cavallo che si rivelava bizzoso. Sebbene questo, Mary osservava, naturalmente era colpa del cavallo, non del discernimento di Fred. Conservò la passione di cavalcare, ma si permise di rado una giornata di caccia e quando lo fece c'è da notare che si lasciò deridere per essersi mostrato pauroso agli steccati, essendogli parso di vedere Mary e i figlioli seduti sul cancello a cinque sbarre o con la testa ricciuta che spuntava fra la siepe e il fossato. Ci furono tre bambini. Mary non si dolse di aver dato alla luce solo dei maschi e quando Fred desiderava avere una figlia come lei, diceva in tono canzonatorio: questo sarebbe un dolore troppo grande per tua madre. Mrs. Vincy, negli anni della vecchiaia e nello splendore attenuato del suo governo della casa, trasse grande conforto dalla scoperta che almeno due dei figli di Fred erano dei veri Vincy e non somigliavano ai Garth. Ma Mary segretamente gioiva a pensare che il minore dei tre fosse molto simile a quello che doveva essere stato il proprio padre quando portava una giacchetta e mostrava una mira fantastica nel giocare a biglie o nello scagliare sassi per far cadere a terra le pere mature. Ben e Lettigers, che divennero zio e zia prima della piena adolescenza, discussero molto se fossero più desiderabili i nipoti o le nipoti. Ben sosteneva che era chiaro che le femmine erano meno brave dei maschi, altrimenti non avrebbero portato sempre la sottana, il che dimostrava quanto poca importanza avessero. Al che Letty, che traeva molte argomentazioni dai libri, si adirò replicando che Dio aveva fatto mantelli di pelle, tanto per Adamo che per Eva. Inoltre, le venne in mente che in Oriente anche gli uomini portavano le sottane. Ma quest'ultima argomentazione, che offuscava l'imponenza della prima, fu di troppo, perché Ben rispose con disprezzo: tanto più svenevoli loro. E immediatamente si rivolse alla madre per chiederle se i maschi non fossero meglio delle femmine. Mrs. Gers dichiarò che entrambi erano ugualmente cattivi, ma che i maschi erano indubbiamente più forti, potevano correre più velocemente e scagliare sassi con maggiore precisione a una distanza maggiore. Ben fu assai soddisfatto di questa sentenza oracolare, non curandosi della cattiveria, ma Letty se ne ebbe a male, perché il suo senso di superiorità era più forte dei suoi muscoli. Fred non diventò mai ricco, la speranza non l'aveva indotto ad aspettarselo, ma poco a poco risparmiò abbastanza per diventare proprietario del bestiame e dei mobili di Stoncourt, e il lavoro che gli affidò Mr. Guest gli permise di attraversare agevolmente quei brutti periodi che sono sempre ricorrenti per gli agricoltori. Mary, in qualità di madre di famiglia, assunse un aspetto solido come quello della madre, ma a differenza di lei impartì ai figli poca istruzione formale, tanto che Mrs. Gers giunse a preoccuparsi che non avessero delle buone basi in grammatica e in geografia. Comunque, quando andarono a scuola furono trovati assai precoci, forse perché non avevano amato nulla quanto stare assieme alla madre. Quando Fred arrivava a casa a cavallo nelle sere d'inverno, pregustava la piacevole visione del focolare luminoso nel salotto rivestito di pannelli di legno e compiangeva altri uomini che non potevano avere Mary per moglie, in particolar modo Mr. Fairbrother. Ti meritava 10 volte più di me, Fred ora poteva dirle con generosità. Certamente, rispondeva Mary, e per questa ragione poteva cavarsela meglio senza di me. Ma tu, rabbrividisco al pensiero di cosa saresti potuto diventare. Un curato che si sarebbe indebitato per noleggiare cavalli e comprare fazzoletti di batista. A chiederlo, forse, si potrebbe scoprire che Fred e Mary abitano ancora a Stoncourt, che i rampicanti gettano ancora il mare dei loro fiori al di là dei bei muri di pietra nel campo dove i noci si rizzano in imponente fila, e che nei giorni di sole i due innamorati, che si fidanzarono per la prima volta col cerchietto dell'ombrello, si possono vedere in canuta placidità. Affacciati alla finestra aperta dietro la quale Mary Gers, ai tempi del vecchio Peter Firstone, aveva spesso ricevuto l'ordine di aspettare Mr. Lydgate. I capelli di Lydgate non divennero bianchi, morì quando aveva solo 50 anni, lasciando alla moglie e ai figli proventi di una grossa assicurazione sulla vita. Aveva raccolto un'eccellente clientela, passando a seconda della stagione da Londra a una località balneare del continente. E aveva anche scritto un trattato sulla gotta, una malattia diffusa soprattutto tra i ricchi. La sua capacità fu apprezzata da molti pazienti paganti, ma egli si considerò sempre un fallito. Non aveva fatto ciò che un tempo aveva inteso fare. I conoscenti gli invidiavano una moglie così incantevole e non intervenne nulla che facesse loro cambiare opinione. Rosamond non commise una seconda indiscrezione compromettente, si limitò a conservarsi mite di carattere, inflessibile nei giudizi, incline ad ammonire il marito e capace di frustarlo con gli stratagemmi. Col passare degli anni, egli le si oppose sempre meno, dal che Rosamond concluse che aveva appreso il valore delle opinioni di lei. D'altro canto, lei si convinse in modo più completo del talento di lui, ora che aveva un buon reddito, e invece della minacciata gabbia in Bride Street, ne trovò una tutta fiori e dorature che si addiceva all'uccello del paradiso a cui lei somigliava. In breve, Lydgate fu quello che si dice un uomo di successo. Ma morì prematuramente di difterite e Rosamond in seguito sposò un anziano e ricco medico, il quale trattò con tenerezza i suoi 4 figli. Lei faceva una gran bella figura assieme alle figlie quando usciva in carrozza e spesso parlava della sua felicità come una ricompensa. cosa non lo diceva, ma probabilmente intendeva dire che era una ricompensa per aver sopportato Tertius, il cui umore non divenne mai irreprensibile e fino all'ultimo, di quando in quando, si lasciò scappare delle parole amareggiate, che erano più memorabili dei segni di pentimento da lui mostrati. Una volta la chiamò alla sua pianta di basilico e quando lei gli chiese una spiegazione, disse che il basilico era una pianta che era fiorita stupendamente sul cervello di un uomo assassinato. Rosamond aveva in serbo una proposta tranquilla, ma vigorosa a simili discorsi. Allora, perché aveva scelto lei? Era un peccato che non avesse scelto Mrs. Ladislaw, che sempre lodava e faceva superiore a lei. E così la conversazione terminava con Rosamond vincente. Ma sarebbe ingiusto ignorare che lei non pronunciò mai una parola che sminuisse Dorotea, conservando un religioso ricordo della generosità che le era venuta in aiuto nel momento più critico della sua vita. Dorotea stessa non si sognava neppure di venir lodata al di sopra delle altre donne, cosciente che c'era sempre qualcosa di meglio che avrebbe potuto fare se soltanto fosse stata migliore e più istruita. Comunque non si pentì mai di aver rinunciato al rango e al patrimonio per sposare Will Ladislaw, e questi avrebbe considerato il massimo della vergogna, oltre che del dolore, se se ne fosse pentita. Erano legate l'una all'altra da un amore più tenace di qualsiasi impulso che avrebbe potuto guastarlo. A Dorotea non sarebbe stato possibile nessuna vita che non fosse piena di sentimento, ed ora aveva una vita piena anche di un'attività benefica che lei non dovette preoccuparsi di scoprire e scegliere per sé. Will divenne un ardente uomo politico, operando bene in quei tempi in cui le riforme venivano intraprese con una fiducia giovanile di un bene immediato, che è stata assai frenata ai nostri giorni. Infine venne mandato al Parlamento da una circoscrizione che pagò le spese. Dal momento che i mali esistevano, nulla avrebbe fatto più piacere a Dorotea che il marito si gettasse nel fitto di una mischia contro di essi e di dargli l'aiuto che si addice a una moglie. Molti che la conoscevano pensavano che fosse un peccato che una donna così concreta e rara fosse stata assorbita dalla vita di un altro e fosse conosciuta solo in una certa cerchia come moglie e madre. Ma nessuno stabilì esattamente a quale altra attività la sua portata avrebbe fatto meglio a dedicarsi, neppure Sir James Chatham, il quale non andò oltre all'ingiunzione negativa che non avrebbe dovuto sposare Will Ladislaw. Ma questa sua opinione non provocò una disaffezione duratura. E il modo in cui la famiglia fu ricompensata fu caratteristico di tutte le persone interessate. Mr. Brooke non poteva resistere al piacere di mantenersi in corrispondenza con Will e Dorotea, e una mattina, quando la sua penna era stata eccezionalmente scorrevole sulle prospettive della riforma municipale, si lasciò andare a un invito alla Grange, che una volta scritto non poteva essere ritirato se non al prezzo, difficilmente concepibile, di sacrificare per intero la preziosa lettera. Durante i mesi in cui questa corrispondenza aveva avuto luogo, Mr. Brooke aveva di continuo, parlando con Sir James Chatham, sottinteso accennato che l'intenzione di escludere Dorotea dal lascito restava ancora. Il giorno in cui dalla sua penna uscì l'audace invito, egli si recò a Freshitt espressamente per comunicare di rendersi conto più che mai delle ragioni di fare quel passo energico come precauzione contro qualsiasi commissione di sangue plebeo nell'erede dei Brooke. Ma quella mattina al palazzo era accaduto qualcosa di elettrizzante. Celia aveva ricevuto una lettera che la fece piangere in silenzio mentre la leggeva, e quando Sir James, non abituato a vedere le lacrime, le chiese pieno di premura cosa c'era che non andava, lei scoppiò in un lamento quale egli non aveva mai udito pronunciare. «Dorotea ha un bambino e voi non volete lasciarmi andare a trovarla? E io sono sicura che lei vuole vedermi e lei non saprà cosa fare se... È terribile! Immaginate se si fosse trattato di me e del piccolo Arthur e a Dodo avessero proibito di venirmi a trovare. Vorrei che fosse meno crudele, James. Santo cielo, Celia, esclamò Sir James, assai turbato. Cosa desiderate? Farò qualsiasi cosa volete. Vi porterò a Londra domani se lo desiderate. E Celia lo desiderava. Fu dopo di questo che Mr. Brooke arrivò e, incontrato il baronetto in giardino, si mise a chiacchierare con lui, ignaro della notizia che Sir James, per qualche motivo, non volle comunicargli immediatamente. Ma quando venne toccato l'argomento dell'ascito nel modo consueto, questi disse: «Mio caro signore, non sta a me darvi degli ordini, ma per parte mia lascerei perdere. Lascerei le cose come stanno». Mr. Brooke rimase talmente sorpreso che non si rese subito conto di quanto fosse sollevato dalla sensazione di non dover far nulla di particolare. Poiché il cuore di Celia vi era favorevole, era inevitabile che Sir James acconsentisse a una riconciliazione con Dorotea e il marito. Quando le donne si vogliono bene fra di loro, gli uomini imparano a soffocare le reciproche antipatie. A Sir James, Will non era mai stato simpatico e Will preferiva sempre stare in compagnia di Sir James assieme ad altri. Si trovavano in una posizione di reciproca tolleranza, che era resa del tutto disinvolta solo quando Dorothea e Celia erano presenti. Divenne un fatto scontato che Mr. e Mrs. Ladislaw facessero almeno due visite alla Grange durante l'anno e poco a poco Freshit crebbe una piccola fila di cuginetti ai quali piaceva giocare con i due cugini in visita a Tipton, come se il sangue di questi cugini fosse stato di meno dubbia mescolanza. Mr. Brooke visse fino a tarda età e la sua tenuta fu ereditata dal figlio di Dorothea, il quale avrebbe potuto rappresentare Middlemarch in Parlamento, ma declinò l'offerta pensando che le sue opinioni avevano meno probabilità di venire soffocate se ne fosse rimasto fuori. Sir James non smise mai di considerare il secondo matrimonio di Dorothea uno sbaglio, e in effetti questa restò l'opinione su di esso a Middlemarch, dove una generazione più giovane si parlò di una bella ragazza che aveva sposato un uomo di chiesa malaticcio, abbastanza vecchio da essere suo padre, e poco più di un anno dopo la sua morte aveva rinunciato alla propria tenuta per sposare il cugino del primo marito, abbastanza giovane da poterne essere il figlio senza alcuna proprietà e di nascita umile. Coloro che non avevano mai visto Dorothea di solito osservavano che non poteva essere stata una ragazza fine, altrimenti non avrebbe sposato né l'uno né l'altro. Certo, quelle azioni determinanti per la sua esistenza non furono belle da un punto di vista ideale. Furono il risultato misto di un impulso giovane e nobile, che si dibatteva fra i condizionamenti di una situazione sociale imperfetta, in cui i grandi sentimenti spesso assumono l'aspetto dell'errore e una gran fede quello dell'illusione. Perché non c'è essere umano la cui essenza interiore non sia determinata in grande misura da ciò che è al di fuori di essa. Una nuova Teresa ben difficilmente avrà l'occasione di riformare una regola conventuale, come una nuova Antigone non dedicherà la propria compassione eroica a sfidare tutto per dare sepoltura a un fratello. L'ambiente in cui le loro azioni ardenti assunsero forma è per sempre scomparso. Ma noi, persone insignificanti, con le nostre parole e le nostre azioni quotidiane, stiamo preparando la vita di molte Dorotee, alcune delle quali possono fare un sacrificio assai più triste di quello della Dorothea di cui conosciamo la storia. Il suo spirito delicato, tuttavia, ebbe le sue delicate espressioni, anche se queste non furono granché visibili. La piena natura di lei, come il fiume di cui Ciro domò la forza, si esaurì in rivoli che sulla terra non portavano un gran nome. Ma l'effetto della sua esistenza su coloro che la circondarono si diffuse in misura incalcolabile, perché il bene crescente del mondo, in parte, dipende da azioni prive di storia. E il fatto che per me e per voi le cose non vadano così male come sarebbe stato possibile, è per metà merito di coloro che condussero fedelmente un'esistenza nascosta e riposano in tombe neglette. Fine.